detti sull'Islam. Disse che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. L'Islam è basato su 5 pilastri portanti. La professione di fede che non c'è divinità tranne Allah e che Muhammad è l'apostolo di Allah. Le 5 devozioni quotidiane. Il pagamento dell'imposta coranica. Il digiuno nel mese di Ramadan. Il pellegrinaggio alla casa di Allah. Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, ha proposto un paragone. C'è un lungo corridoio nelle cui pareti ci sono delle porte coperte da delle tende e in fondo al corridoio c'è qualcuno che ordina: venite avanti e non uscite dalle porte laterali. Sopra colui che ordina c'è un altro, il quale tutte le volte che chi cammina nel corridoio si accinge ad uscire da una delle porte laterali ammonisce: stai in guardia, non scostare la tenda per uscire. Se esci da quella porta, perdi te stesso. Orbene, il corridoio è l'Islam e le porte laterali sono le cose che Allah ha proibito. Colui che dalla fine del corridoio dà l'ordine è il Corano e l'altro che ammonisce è la coscienza che Allah ha posto nel cuore di ogni credente. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, l'Islam è incominciato come cosa di stranieri e tornerà come quando è iniziato. Beati quegli stranieri. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, questa religione non cesserà mai di esistere perché ci sarà sempre un manipolo di musulmani che combatteranno per la sua causa in ogni tempo fino all'arrivo della fine del mondo. La professione di fede ash-shahada. Disse che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. Sarà preservato dal fuoco dell'inferno chi avrà fatto professione di fede islamica, rendendo testimonianza che non c'è divinità tranne Allah e che Muhammad è l'apostolo di Allah. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, chi avrà fatto professione di fede islamica, rendendo testimonianza che non c'è divinità tranne Allah, il quale è unico, non ha condomini nella sua divinità, che Muhammad è suo servo e apostolo, che Gesù è servo di Allah, apostolo di Allah, figlio della sua ancella, suo verbo che egli alitò nel grembo di Maryam, spirito da lui proveniente, che il paradiso e l'inferno sono verità, Allah lo farà entrare in paradiso qualunque cosa egli abbia fatto. Le 5 devozioni quotidiane, as-salah, cioè i 5 riti di adorazione. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, fate le vostre devozioni quotidiane, cioè i 5 riti di adorazione, come le avete viste fatte da me. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, la devozione quotidiana, cioè il rito di adorazione, è la chiave del paradiso e la purezza rituale è la chiave della devozione, cioè del rito di adorazione. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, la chiave della devozione quotidiana, cioè del rito di adorazione, è la purificazione. La sua consacrazione si fa con il takbir, cioè dicendo Allahu Akbar, la sua conclusione si fa con il taslim, cioè dicendo assalamu alaikum. Disse, che Allah lo benedica e lo abbia in gloria, la devozione quotidiana, cioè il rito di adorazione, è per il credente l'equivalente del mi'raj. Il mi'raj è l'ascensione del profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, alla presenza di Allah. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, per essere ben accetta ad Allah, la devozione, cioè il rito di adorazione, deve essere fatta in uno stato di completa concentrazione della mente nel pensiero di Allah e con l'animo di chi sta per prendere congedo dal mondo. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Allah non accetta un atto di devozione, cioè un rito di adorazione, se il cuore del devoto non accompagna i movimenti del suo corpo. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, nel giorno del giudizio la prima cosa che verrà presa in esame sul conto di un servo sarà la devozione quotidiana, cioè il rito di adorazione. Se l'esame avrà avuto esito positivo, anche tutto il resto avrà esito positivo. Se l'esame avrà avuto esito negativo, anche tutto il resto avrà esito negativo. L'abluzione. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, se uno esegue l'abluzione come Allah comanda, i peccati che ha commesso escono dal suo corpo perfino da sotto le unghie. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, quando un servo, musulmano o credente, esegue l'abluzione, viene mondato dai peccati. Quando egli lava la sua faccia, l'acqua con cui si lava lo monda da tutti i peccati che ha commesso con gli occhi. Quando lava le mani, l'acqua lo monda da tutti i peccati che ha commesso con le mani. E quando si lava i piedi, l'acqua lo monda da tutti quei peccati a commettere i quali i piedi l'hanno portato. L'adorazione congregazionale del venerdì, Salatul Jumu'ah. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, noi, che siamo gli ultimi, saremo i primi nel giorno della resurrezione, e ciò nonostante che essi, giudei e cristiani, abbiano ricevuto il libro prima di noi e noi lo si sia ricevuto dopo di loro. Per la celebrazione del rito d'adorazione congregazionale era stato reso obbligatorio, tanto per i primi quanto per i secondi, il giorno di venerdì, ma ci fu controversia e Allah guidò noi alla celebrazione del venerdì. Gli altri verranno dopo di noi ed è per questo che i giudei celebrano il sabato e i cristiani la domenica. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, in verità nel venerdì c'è un'ora in cui Allah esaudisce ogni richiesta di bene che il suo servo devoto gli presenta durante il rito dell'adorazione congregazionale. Disse, chi parla mentre l'imam predica durante il rito d'adorazione congregazionale di venerdì è come un asino che porta libri e chi gli dice sta zitto ha perso il venerdì. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, il venerdì merita considerazione e rispetto, esso è il giorno più bello della settimana, il giorno esso è nel quale fu creato Adamo, nel quale Adamo venne introdotto nel paradiso e nel quale fu cacciato da esso, è anche il giorno della fine del mondo. L'imposta coranica a Zakà. Ho ricevuto l'ordine di combattere gli uomini fino a quando non avranno reso testimonianza che non c'è divinità tranne Allah e che Muhammad è l'apostolo di Allah. Non eseguano le 5 devozioni quotidiane, non paghino l'imposta coranica. Dal momento in cui faranno tutto questo, io sarò garante delle loro vite e delle loro proprietà, fatti salvi i diritti dell'Islam, e il loro conto comunque è presso Allah. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Allah ha reso obbligatorio ai musulmani abbienti di pagare una somma per l'assistenza pubblica degli indigenti. Allah sarà molto duro nel giudicare e nel punire chi si sarà sottratto a quest'obbligo. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, nel giorno del giudizio saranno guai grossi per tutti quei ricchi nei confronti dei quali i poveri diranno: «O Signor nostro, essi sono venuti meno al dovere che avevi loro imposto per soddisfare i nostri diritti verso di loro». Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, colui al quale Allah ha dato la ricchezza e non versa l'imposta coranica ad essa relativa, nel giorno del giudizio incontrerà la sua ricchezza sotto forma di serpente con 2 grossi denti, il quale gli si attorciglierà attorno al collo e dopo aver eretto la testa davanti al suo mento, dondolandola avanti e indietro, sibilerà: «Io sono la tua ricchezza, io sono il tuo tesoro nascosto». Allora quell'avido allungherà la mano per prenderlo e il serpente lo ingoierà a partire dalla mano. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, se possiedi 200 dirham, cioè monete di argento, sui quali è trascorso un anno, devi pagare un'imposta coranica di 5 dirham, ma non devi pagarla se non possiedi almeno 20 dinar. Se possiedi 20 dinar e su essi è trascorso un anno, devi pagare mezzo dinar. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, pagate l'imposta coranica sull'argento nella misura di un dirham ogni 40. L'esenzione dall'imposta coranica opera fino a 199 dirham, ma se si raggiungono i 200 dirham, se ne devono versare 5 a titolo di imposta coranica. Il digiuno di Ramadan. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, digiunate dall'avvistamento della luna nuova del 9° mese lunare all'avvistamento della luna nuova del 10° mese lunare. Se il giorno 29 del mese di Shaban è coperto, considerate Shaban di 30 giorni. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, quando giunge Ramadan, le porte del cielo vengono aperte, quelle dell'inferno vengono sbarrate e tutti i diavoli vengono messi in catene. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, il digiuno non è valido se prima dell'alba non è stata dichiarata l'intenzione di digiunare durante il giorno. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, il momento della rottura del digiuno è quello in cui la notte viene da questa parte, oriente, il giorno se ne va da quella parte, ponente, e il sole è calato sotto l'orizzonte. Disse, Che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. Quando il momento di rompere il digiuno è arrivato, rompetelo con dei datteri, poiché in essi c'è benedizione. Però, se non trovate datteri, rompetelo con l'acqua, perché essa è pura. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, se qualcuno, essendosi dimenticato d'essere in digiuno, mangia o beve qualcosa, quando se ne rammenti, completi pure il suo digiuno, poiché è stato Allah a nutrirlo e a dissetarlo. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Allah terrà a una distanza di 70 anni dal fuoco dell'inferno la faccia di chi digiuna anche un sol giorno per amore di lui. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, chi digiuna nel mese di Ramadan con fede e al solo scopo di ricevere la ricompensa divina, riceverà il perdono di tutti i peccati che ha commesso nel suo passato. Chi fa le devozioni in Ramadan con fede e al solo scopo di ricevere la ricompensa divina, riceverà il perdono di tutti i peccati che ha commesso nel passato. Chi fa devozioni nella notte del destino con fede e al solo scopo di ricevere la ricompensa divina, riceverà il perdono dei peccati che ha commesso nel suo passato. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, chi durante il digiuno non si astiene dal dire bugie e dal tenere condotta riprovevole, sappia che Allah non ha affatto bisogno né del suo astenersi dal mangiare né del suo astenersi dal bere. Il pellegrinaggio e la Umra. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, chi esegue il pellegrinaggio per amore di Allah e si comporta senza dire parole indecenti e senza fare azioni immorali, ritorna come il giorno in cui sua madre lo mise al mondo. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, il pellegrinaggio è a Arafa. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, fate in modo che al pellegrinaggio segua subito la Umra, poiché il pellegrinaggio e la Umra allontanano la povertà e i peccati come il martello rimuove la ruggine dal ferro, dall'oro e dall'argento. Per un pellegrinaggio accettato da Allah non c'è altra ricompensa che il paradiso.